Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Stabile la disoccupazione, ma cresce quella giovanile. Oltre 240.000 occupati in più nel 2016, ma molti sono over 50. Traffico di armi con Libia e Iran. In manette 4 persone, tra loro un italiano convertito all'Islam e radicalizzato. Stati Uniti ancora scontro sul blocco dei visti da 7 paesi. Trump silura e sostituisce la ministra della giustizia. Attacco alla moschea in Canada, l'ha arrestato uno studente nazionalista, sovranista, simpatizzante di Trump e Marine Le Pen. Il paziente destinato a chirurgia finisce in rianimazione e viceversa, morti entrambi. L'ASL apre un'inchiesta sull'ospedale di Tivoli. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it invece, se ci volete scrivere. In apertura dunque i dati sulla disoccupazione. A dicembre 2016 il tasso di disoccupazione dei 15-24 anni è arrivato al 40,1%. A fare il punto sul rapporto tra lavoro e giovani è l'Istat, che però spiega che la variazione è determinata solo dal calo della popolazione in questa fascia di età e che al netto degli effetti demografici sono aumentate di 27.000 unità le persone occupate in una fascia di età più ampia, quella tra i 15 e i 34 anni. Dal calcolo del tasso di disoccupazione sono esclusi i giovani inattivi, cioè coloro che non sono occupati e non cercano lavoro. Nella maggior parte dei casi perché impegnati negli studi. Nel complesso, il numero degli occupati nel 2016 è cresciuto di 242.000 unità, con una concentrazione particolarmente forte tra gli over 50, dato sul quale pesano due elementi. Anche qua un effetto demografico, dato dal passaggio in questa fascia di età di chi ha compiuto 50 anni l'anno scorso, così come un effetto Fornero, con la riforma previdenziale che ha aumentato i requisiti di età per la pensione, trattenendo le persone sul lavoro. E se il tasso generale di disoccupazione resta stabile al 12%, nell'Eurozona scende a dicembre al 9,6%, il livello più basso da maggio 2009. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle indagini sul traffico di armi che ha portato a degli arresti questa mattina. Vendevano eli ambulanze in Iran e Libia, che poi venivano trasformate in elicotteri da guerra. Non solo, violando anche l'embargo internazionale, riuscivano a far arrivare nei due paesi fucili d'assalto, missili terra-aria, missili anticarro. Sono le accuse a carico delle quattro persone destinatarie dei provvedimenti di fermo emessi dalla DDA di Napoli. Tra loro anche l'amministratore delegato della società italiana Elicotteri, Andrea Pardi, già coinvolto peraltro in un'altra inchiesta su traffico di armi e reclutamento di mercenari tra Italia e Somalia. In manette anche una coppia di San Giorgio a Cremano, Mario Di Leva e la moglie Anna Maria Fontana, convertitisi all'Islam, mentre il figlio risulta indagato a piede libero. Coinvolto infine un cittadino libico. I quattro avevano contatti frequenti con cittadini libici, somali ed iraniani. Dalle intercettazioni sarebbero emersi presunti contatti tra i coniugi di San Giorgio a Cremano e i rapitori di quattro italiani sequestrati in Libia nel 2015. Un sequestro che si concluse a marzo del 2016 con la morte di due degli ostaggi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle vicende dagli Stati Uniti allo scontro sul cosiddetto Muslim Ban, ossia il blocco imposto dal presidente Trump sugli ingressi da una serie di paesi, sostituita dalla ministra reggente della giustizia che aveva ordinato di non applicare l'ordine. La Casa Bianca ha fatto sapere che il nuovo ministro reggente, Dana Boente, ha intenzione di ordinare al Dipartimento della Giustizia di fare il nostro dovere giurato, testuali parole. Intanto si allarga la protesta, a questa protesta è dedicata l'analisi del martedì di Daniele Biacchessi. Centinaia di migliaia di americani in piazza contro i primi provvedimenti sull'immigrazione di Trump non si vedevano dagli anni 60 e primi dei 70, contro la guerra del Vietnam e contro il presidente Richard Nixon. Rispetto a 50 anni fa, i cortei che sfilano in ogni città del paese non sono però diretti dai cosiddetti professionisti delle piazze, dai soli studenti universitari, dai giovani. La protesta riguarda ormai tutti i ceti sociali, le provenienze ideologiche, politiche, religiose e coinvolge perfino ampi strati di popolazione che alle recenti presidenziali avevano dato fiducia a Trump. Dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie, dalle metropolitane alle fermate degli autobus e fino ad occupare le strade, strade, le piazze d'America. È accaduto non solo a Washington, davanti alla Casa Bianca, a New York sotto la Statua della Libertà, a San Francisco, cioè nei luoghi in cui sono radicati maggiormente i progressisti. Anche a Chicago, Dallas, Denver, Los Angeles, Seattle, Boston e perfino ad Atlanta. In migliaia, in ogni angolo d'America, stanno manifestando a sostegno delle persone in arrivo da Siria, Iraq, Sudan, Libia, Yemen, Iran e Somalia, rimaste bloccate e a rischio rimpatrio. Negli aeroporti sono arrivati anche i gruppi di avvocati che hanno difeso le persone fermate a titolo gratuito. Non si sa se questa protesta produrrà anche futuri leader politici, ma è certo che passerà alla storia come uno dei più grandi atti di disobbedienza civile d'America. Di tutto questo torneremo a parlare tra poco, come sempre, in America 24 con Mario Platero alle 13.45. In Canada, intanto, si apprende che l'attentatore della moschea era proprio un simpatizzante di Trump. Ammira Donald Trump, Marine Le Pen e le forze armate israeliane e viene descritto dai suoi compagni di studio come un nerd solitario ed emarginato, nazionalista e antifemminista. Questo è il profilo di Alexandra Bissonette, lo studente di scienze sociali di 27 anni, incriminato per la strage alla moschea di Quebec City, dove ha ucciso 6 persone e ne ha ferite altre 8, di cui 3 in pericolo di vita e 2 molto gravi. A suo carico 6 capi d'accusa per omicidio di primo grado e 5 capi d'accusa per tentato omicidio. Come riferito dalla polizia, Bissonette ha chiamato gli agenti mezz'ora dopo la strage consegnandosi. Lo studente 27enne comparirà ora in tribunale il prossimo 21 febbraio. Il Canada risponderà a questa sanguinosa sparatoria con l'amore e la compassione, ha dichiarato il primo ministro Justin Trudeau. È un atto terroristico contro il Canada e tutti i canadesi. Noi siamo con loro, ha aggiunto il capo del governo, rivolgendosi a quel milione di canadesi di confessione musulmana. Il premier del Quebec, Philippe Couillard, ha inoltre ribadito: il nostro paese deve rimanere un faro di tolleranza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero e andiamo in Ucraina. 7 morti, almeno 20 feriti nelle ultime ore nei combattimenti ripresi intorno al principale obiettivo industriale del Donbass. Sentiamo. Avdiivka per Kiev è la fabbrica che non può chiudere. È la fonderia più importante dell'Ucraina ed è controllata ancora dal governo, nonostante sia solo 25 km a nord di Donetsk. È immersa nella zona cuscinetto, dove separatisti e governativi combattono le battaglie più dure. È strategica ed è lavoro ancora per 10.000 persone che rischiano sotto i colpi della guerra, perché altrove non c'è di meglio. Erano 60.000 prima della guerra. Nonostante la posizione impossibile, i quasi 3 anni di guerra e la fuga di migliaia di civili, la fabbrica continua a produrre. Negli ultimi 2 anni ci sono stati parecchi scontri tra le forze di Kiev e i militari filorussi, nonostante il cessate il fuoco stabilito dagli accordi di Minsk. Avdiivka è un nodo strategico, tanto che la ripresa dei bombardamenti sulla città ha spinto il presidente Petro Poroshenko a interrompere la sua visita ufficiale a Berlino per tornare a coordinare la difesa della città. La situazione rasenta il disastro umanitario, ha dichiarato il portavoce della presidenza di Kiev, Ziegolko. L'Europa, indecisa sul da farsi, continua a guardare altrove. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E veniamo alle vicende politiche italiane, a partire dallo scontro nel Partito Democratico che resta aperto. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, è guerra sul voto nel PD, il segretario Dem punta alle urne a fine aprile, potrebbe però anche essere più realisticamente a giugno. L'ex premier si rivolge ad un elettorato di centro, promette di non alzare le tasse, basta al partito Dracula, che veniva visto come quello che appunto innalzava la pressione fiscale. E sul congresso Renzi risponde che non si è fatto perché mi è stato chiesto di rispettare la tempistica e le regole dello statuto che lo prevedono alla fine del 2017. Dall'altra parte Massimo D'Alema, che sogna un partito di sinistra e che invoca la scissione qualora il segretario non faccia il congresso prima del voto. La tesi di D'Alema è che una nuova formazione di sinistra possa raggiungere il 10%. E per Francesco Boccia è importante fare il congresso PD perché è l'unico modo di riunire il partito. Michele Emiliano, dice Boccia, è in grado di unire poi la sinistra italiana. La minoranza insomma vuole che si faccia il congresso di partito prima del voto, perché in sostanza dicono che Renzi non può fare le liste da solo. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito e veniamo alle vicende romane. Ieri il Consiglio Comunale di Roma ha approvato il bilancio, i riflettori in questo momento restano puntati sullo stadio della capitale e ovviamente sulla figura di Virginia Raggi, che dovrà essere sentita dai magistrati. Sentiamo. In attesa del suo interrogatorio in procura per l'inchiesta sulle nomine in Campidoglio, Virginia Raggi incassa il via libera al nuovo bilancio di Roma Capitale. È una manovra da 5,3 miliardi, quella approvata ieri sera dall'Assemblea Capitolina, una finanziaria rivista dopo la bocciatura arrivata a dicembre dai revisori dei conti del Comune. Per il triennio 2017-2019 è previsto un piano di investimenti da oltre 577 milioni, di cui 430 per i trasporti e altri 62 per la manutenzione urbana. È un risultato storico. Da anni Roma non aveva un bilancio approvato così presto. Riportiamo la legalità nei conti, esulta la prima cittadina. Il Comune chiede invece alla Regione ancora un mese di tempo per l'approvazione della delibera sullo stadio della Roma, un provvedimento necessario per sbloccare la realizzazione dell'impianto, sul quale però ci sono ancora opinioni diverse all'interno della Giunta Raggi, ma anche tra i 5 Stelle della Capitale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La diplomazia italiana deve supportare le imprese, dice il ministro degli esteri Angelino Alfano in un'intervista oggi al Sole 24 Ore. Oggi è di questo che si discute nella sede di Confindustria, proprio con Alfano e con il presidente di Confindustria Boccia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. E così migliorare il gioco di squadra tra imprese e diplomazia per rilanciare il Made in Italy. Questo è il messaggio che arriva dal convegno Diplomazia Economica. Quale impatto sulla crescita del paese? L'export è una componente essenziale, ha detto il presidente di Confindustria Boccia. L'Italia ha bisogno di una diplomazia economica che la segua. Le imprese italiane hanno bisogno appunto di una diplomazia economica che la segua, di una dimensione di competitività per poter vendere beni e servizi all'estero. Occorre fare sistema e usare la questione economica come partner di un obiettivo politico. L'impatto della diplomazia economica è stato misurato da un'indagine di Prometeia che è stata presentata qui oggi, pari all'1,1% del PIL, equivalente a 234 mila posti di lavoro, 16 miliardi di valore aggiunto. Ma all'estero possiamo essere ancora più forti, ha detto il ministro degli esteri Alfano, aggiungendo che poi inaccettabile un protezionismo a senso unico, cioè inammissibile che altri scorassi nel nostro paese senza reciprocità. Una società che si chiude determina una fase recessiva, ha detto anche Boccia, che ha poi commentato i dati Istat sulla disoccupazione giovanile. Allora possiamo sentire la sua voce e la linea poi può tornare allo studio. Questo spinge il paese a costruire una grande dimensione di inclusione dei giovani. È evidente che l'accelerazione sulla crescita deve comportare una dimensione di occupazione, di occupabilità nel paese. Dobbiamo lavorare a una grande stagione di inclusione dei giovani nel mondo del lavoro. Certo, abbiamo un contesto di politiche potenzialmente neoprotezionistiche. Al momento che l'Europa si dia una svegliata dal punto di vista di politica economica, e tra l'altro ricordiamolo che abbiamo potenzialità incredibili essendo il secondo paese industriale d'Europa. Così dunque il presidente di Confindustria Boccia. Siamo quasi in chiusura di questa prima parte. Il calcio con la Coppa Italia e Inter e Lazio si giocano questa sera dalle 20:45 un posto in semifinale. Chi passa incontrerà il 1 marzo la vincente fra Roma e Cesena, in programma domani. L'andata dell'altra semifinale fra Juventus e Napoli si giocherà martedì 28 febbraio. Di tutto questo torneremo a parlare alle 14 in Tutti Convocati. Noi adesso ci occupiamo, prima di chiudere, di Sanremo. Manca una settimana, come ogni anno. Polemiche, si parla di beneficenza e politica aspettando le canzoni. Viviamo nell'epoca della post-verità, l'epoca in cui le emozioni e le convinzioni personali, spesso spinte dalle voci in rete, contano molto di più dei fatti oggettivi. E la post-verità non può certo risparmiare Sanremo. Così a Carlo Conti tocca difendersi dall'accusa di aver preso un compenso dorato per il festival, compenso che potrebbe andare ai terremotati cancellando la manifestazione. Già la RAI aveva comunicato che la cifra che circola in rete sul compenso è falsa. Conti ha un contratto quadro per il suo incarico in RAI, insomma guadagna lo stesso con o senza Sanremo. E ora dalle pagine del prossimo Chi il conduttore interviene direttamente. Comprendo il sentimento che parte da un disagio che c'è nella società, ma bisognerebbe sapere i fatti. Quello che mi dispiace, dice, è l'attacco personale, gratuito, senza sapere le cifre, senza sapere che negli ultimi 2 anni il festival ha prodotto ricchezza per la RAI, senza sapere che molti programmi si ripagano con la pubblicità, portando utili importanti. Ci sono altri modi in cui ciascuno di noi fa qualcosa per chi vive un'emergenza. conoscenza ed è bello se rimane privato. Per il resto sono solo canzonette, anche se non si potrà non parlare di politica. Ad esempio, impossibile non chiedere negli incontri stampa pre Sanremo a uno dei big, americano di cittadinanza, Sergio Silvestre, cosa pensa della situazione negli Stati Uniti. Guarda, mi fa così male di vedere, di sentire che a volte io ci sblocco di non guardare troppo, perché sono delle cose che mi dà anche vergogna. Solo voglio dire quello di questa cosa. Mi vergogno. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E lo inizieremo da Pompei, dove in queste ore torna a concentrarsi l'attenzione anche sulle parole, sulla base delle parole del sovrintendente Massimo Zanna, il quale insomma accusa un paio di sindacati di fargli una guerra un po' troppo intensa, per così dire, con una serie di azioni di disturbo. Tra l'altro è convocata un'assemblea sindacale per il giorno nel quale sarà in visita a Pompei la commissaria europea. Ne parleremo con uno di questi sindacati e gli chiederemo qualche dettaglio in più. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati dei dati sulla disoccupazione arrivati oggi, di una vicenda di cronaca che vede un traffico di armi con Libia e Iran e vede coinvolto anche un italiano radicalizzato. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, del Canada e ci siamo occupati, come avete sentito, anche di Sanremo. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e lo iniziamo da Pompei. Voglio salutare subito Rinaldo Satolli, è il segretario nazionale del coordinamento FLP-BAC, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche dei Beni Culturali, che è un sindacato autonomo. Satolli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, si concentrano su di voi una serie di accuse, a partire da quelle del sovrintendente Massimo Osanna, che dice che voi insieme all'UNSA siete i due sindacati che gli stanno creando più problemi. Problemi dettati, dice Osanna, da una serie di micro interessi personali. Lui porta un esempio: la continua convocazione di assemblee. La prossima sarà, tra l'altro, se non erro, il 9 febbraio, il giorno della visita della commissaria europea, che viene tra l'altro con il ministro Franceschini. E in più c'è questo sospetto sotto traccia che qualcuno dei lavoratori, quando la tensione sindacale si alza, danneggi Pompei proprio per creare dei problemi. Che cosa rispondete? Beh, intanto il linguaggio adeguato sarebbe quello utilizzato da Sgarbi, ma per rispetto degli ascoltatori naturalmente non lo utilizzeremo. Il primo elemento, cioè cercheremo con pacata fermezza di spiegare la situazione di Pompei. No, dico, cosa intende per il linguaggio di Sgarbi? Beh, il turpiloquio. Il turpiloquio sarebbe più adatto a vabbè, siamo in fascia protetta, lasciamolo per la zanzara quello. Allora, prego. Dicevo questo, noi diciamo la nostra principale responsabilità per quanto attiene le osservazioni, diciamo così, eufemisticamente parlando, di Osanna è quella di sollevare il velo dall'ipocrisia che governa la comunicazione nei confronti dell'opinione pubblica. Sì, Satolli, però io l'ho chiamato perché qua ci sono delle accuse, alcune anche abbastanza precise. Accuse a cui risponderemo, diciamo, se ho qualche minuto, in maniera esaustiva, spero. Sì, qua non è che abbiamo 20 minuti di trasmissione, quindi... Siamo qui. Elemento, le assemblee. La prima assemblea è stata fatta dopo molti mesi, alcuni giorni fa, ed è stata fatta semplicemente per informare i lavoratori rispetto alle criticità che le organizzazioni territoriali avevano evidenziato in tempi non sospetti, senza avere alcuna risposta direttamente al direttore Osanna. Sì. Quindi, primo elemento. Assemblea, stiamo parlando dell'assemblea, immagino del 26 gennaio, quella Perfetto. Nella quale Osanna ha deciso di richiamare, per così dire, altro personale in servizio non coinvolto dall'assemblea per far aprire gli scavi e consentire dunque ai turisti di entrare, no? Certo. Allora, intanto noi quando facciamo un'assemblea siamo tenuti ad informare preventivamente la struttura proprio per evitare i disagi ai turisti. Secondo elemento, la chiusura del sito archeologico o di qualunque altro istituto dei beni culturali, questa è una vecchia polemica, avviene esclusivamente nel momento in cui ci sono le condizioni, vale a dire se le adesioni sono cospicue, questo non è, diciamo, è un nostro merito ma anche una nostra responsabilità, è chiaro che non ci sono più le condizioni per la tutela del sito medesimo. Ed è chiaro, altrettanto è chiaro, che il direttore Osanna avrebbe dovuto chiudere il sito. Su questo elemento in particolare noi siamo stati costretti a denunciarlo proprio ai carabinieri, perché per prima cosa lui non aveva provveduto a convocare le parti sociali. Lei sa, Satoli, che non è molto popolare questa come posizione, nel senso che se voi minacciate per un'assemblea sindacale di far chiudere il sito di Pompei a partire dalle 9 del mattino con i turisti magari in attesa e il sovrintendente decide tramite il reperimento di altro personale di far aprire, sinceramente non penso, come dire, che messa a referendum una cosa di questo genere no, passerebbe la vostra posizione. Ripeto, il nostro obiettivo non è chiudere il sito, il nostro obiettivo è richiamare l'opinione pubblica sulla fragilità del sistema con cui si regge l'intero settore dei beni culturali. Dice Osanna che il giorno dopo che lui ha fatto questa operazione è crollato il muro di una domus. Ecco, anche qui, grande, veramente... Qui... E viene segnalata una coincidenza tra episodi di tensione sindacale, momento di tensione sindacale, e si rompe qualcosa. Sì, sì, ma di questo risponderà in tribunale, perché ovviamente lo stiamo querelando per diffamazione, eccetera, eccetera. Ma l'altro tema fondamentale è uno, cioè il Pompei è una realtà talmente grande che il grande progetto Pompei, così conclamato, reclamizzato, eccetera, riguarda solo 50 domus. Il sito archeologico di Pompei ne ha oltre 500, quindi si tratta di un sito, insomma, che ha... Le posso chiedere una cosa, Satolli? Sì. Allora, mi scusi, allora, tante assemblee, proteste, lo scontro con Osanna, ma cosa volete? Allora, noi vogliamo soltanto che le cose funzionino, noi vogliamo soltanto che le criticità che rileviamo e il sottorganico ormai endemico e la mancanza di un'organizzazione emerga e si trovino soluzioni. Noi vogliamo che il soprintendente Osanna, il direttore Osanna, sia presente in sito, è remunerato profumatamente e va in giro per il mondo in attività autoreferenziali e non si occupa della complessa gestione del sito stesso. Tra le altre cose, Osanna in un'intervista al Corriere della Sera oggi dice tra i motivi della prossima assemblea, non ho capito se è quella del 26 gennaio, no, l'assemblea del 26 gennaio, quella famosa, tra i motivi c'è il fatto che io non ho voluto ricevere in separata sede il vostro sindacato insieme all'UNSA rispetto agli altri sindacati, cioè dice quando anche li ricevo li voglio ricevere tutti insieme. Davanti, anche di questo risponderà. Perché dite che non è vero. Perché ha anche dichiarato che noi l'abbiamo ricattato. Noi, in senso lato, ovviamente, io faccio il nazionale, non è che mi metto ad occuparmi di piccole questioni, ma nel momento in cui assurgono a Pompei non è proprio una piccola questione nazionale, vertenza nazionale, ovviamente me ne occupo. Quindi di queste dichiarazioni risponderà in tribunale. La realtà è vera che lui sfugge ai compiti istituzionali ai quali è preposto. La realtà vera è che io ho dovuto scrivere al ministro proprio ieri per chiedere, in base alla legge 165, articolo 14, comma 3, secondo la procedura prevista, in caso di grave pregiudizio per l'interesse pubblico, la nomina di un commissario ad acta. Lei ha chiesto, è inadeguato a svolgere questo ruolo. Lei ha chiesto appunto la nomina di un commissario. Andremo a vedere come finirà questa vicenda. Mi scusi, un'ultima cosa. L'assemblea del 9 febbraio era proprio necessario nel giorno della visita della commissaria europea? Posso confessarle candidamente che noi abbiamo semplicemente aderito a una nota pervenuta questa mattina dal professor Osanna che ci chiedeva di spostare dalla data del 5. Noi, per senso di responsabilità, siccome è la domenica gratuita e non vogliamo danneggiare i turisti, abbiamo scelto un'altra data. Un'altra data, che, data è quella, che è quella nel quale arriva il ministro. Casualmente ricade il giorno della visita del ministro e del commissario europeo. Però è chiaro che cioè non possiamo derogare alle nostre prerogative. E quindi confermato il 9, confermato il 9 saremo lì. Casualmente. Grazie. L'opinione pubblica deve sapere. Sì, grazie. Siamo in radio. Grazie Rinaldo Satolli, segretario nazionale del coordinamento FLP BAC, Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche e Beni Culturali. E adesso nel nostro giro per l'Italia andiamo a Tivoli. La vicenda risale ad una decina di giorni fa, ma le notizie si sono avute solamente in queste ore, ed è una vicenda che riguarda due pazienti che sono stati scambiati. Quello che doveva andare in rianimazione è andato in chirurgia, quello che doveva andare in chirurgia è andato in rianimazione e adesso sono morti entrambi. Siamo in linea col dottor Ugo Donati, che è il primario di medicina d'urgenza dell'ospedale di Tivoli. Buongiorno dottor Donati, benvenuto. Buongiorno. Com'è stato possibile? Guardi, innanzitutto mi faccio inquadrare un attimino la situazione, fosse solo per rispondere anche a quelle che sono ormai tutte le informazioni che girano per la stampa, che chiaramente sono esagerate per il verso contrario, quindi credo che un minimo di verità debba essere fatta sotto questo punto di vista. Stiamo parlando di due pazienti che aggiungono alla nostra osservazione in condizioni decisamente molto gravi, due pazienti in codice rosso. I pazienti stazionano uno per 3 giorni, l'altro per 4 giorni nella nostra area critica e durante tutto questo periodo sono stati completamente assistiti sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico in maniera personalizzata ed efficace. Ok, quindi scusi se mi dilungo un attimino. No, ma è giusto, insomma, prego, ho sentito dire da varie comunicazioni Facebook che in realtà abbiamo sbagliato fin dall'inizio la terapia, eccetera, eccetera. Assolutamente no. I pazienti sono stati identificati fin dall'inizio e nel momento in cui si sono liberati i due posti letto, chiaramente lì purtroppo c'è stata questa piccola disattenzione da parte nostra. Tenendo presente che comunque che sia il paziente che mi scusi dottor Donati, mi perdoni sì. E poi il medico è lei, però mica tanto certo. Piccola mi sembra. No, ascolti, piccola dal punto di vista procedurale, mi permette di dire, nel senso che tutte e due i pazienti, ripeto, erano pazienti gravi in codice rosso, ma nessuno dei due è stato lasciato o per errore o messo nel reparto dove non ha assistito cure. Tutte e due hanno continuato le cure specifiche del loro caso. Tenendo presente che, mi permetta di dire anche questo, nell'ambito di questo errore ne ha giovato sicuramente il paziente che è arrivato in rianimazione e che doveva e che più dell'altro aveva forse necessità di avere terapia riabilitativa. Allora, abbiamo perso la linea col dottor Ugo Donati, vediamo se siamo in grado di recuperarla. Ce l'abbiamo. Perfetto. Allora, ci stava dicendo che è andato in rianimazione la persona che aveva in realtà anche bisogno di andare in rianimazione sostanzialmente. Certo. Di fatto tenga presente che comunque, e ribadisco il concetto, tutte e due pazienti, sia nel periodo in cui hanno stazionato in pronto soccorso, sia nei reparti a cui sono stati assegnati, hanno praticamente avuto le cure specifiche del caso. Nessuno è stato sottovalutato, né tantomeno sono state fatte terapie non idonee alla situazione specifica. Però lo scambio è avvenuto però, dottore, no? Indubbiamente sì, io su questo non è che posso dire di no, cioè questo è evidente, insomma, quindi anzi di questo mi permetta di chiedere scusa, perché di fatto un disagio nei confronti dei parenti in qualche maniera è stato provocato. Se fossero andati ciascuno nel reparto giusto, non, la situazione non sarebbe stata diversa, sarebbero morti entrambi nulla. Lo stesso? Non ho capito, scusi. Dico, sarebbero morti entrambi lo stesso nel caso fossero andati ciascuno nel reparto giusto? Adesso chiaramente io non è che ho la palla di vetro, né tantomeno posso dirle tranquillamente che parliamo di due pazienti gravi, della cui gravità erano stati avvisati i parenti tutti quanti, d'accordo? Quindi in genere noi ci permettiamo di avvisare i parenti quando la situazione è estremamente importante. La ringrazio, grazie al dottor Ugo Donati di Medicina d'Urgenza dell'ospedale di Tivoli, le auguro buona giornata. Altrettanto a lei, arrivederci. Noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia e torneremo nelle zone colpite dal terremoto e dal maltempo, dove ci sono una serie di sindaci che sono ancora appesi, nel senso che dopo l'allarme della Commissione Grandi Rischi stanno tenendo chiuse le scuole perché non sanno che fare, hanno paura anche che la responsabilità e anche quella penale ricada su di loro. Sentiremo due di loro tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: stabile la disoccupazione ma cresce quella giovanile, oltre 240.000 occupati in più nel 2016, ma molti sono over 50. Il traffico di armi con Libia e Iran, in manette 4 persone, tra loro un italiano convertito all'Islam e radicalizzato. Stati Uniti ancora scontro sul blocco dei visti da 7 paesi, Trump si lura e sostituisce la ministra della giustizia. Attacco alla moschea in Canada, l'arrestato uno studente nazionalista, sovranista, simpatizzato di Trump e Marine Le Pen nella borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo. Un ascoltatore mi scrive su Twitter, Giancarlo mi scrive sul mio profilo Twitter, a proposito delle due vicende che abbiamo trattato prima, quella dei sindacati di Pompei e quella dell'ospedale di Tivoli, di un'Italia ridicola che sfugge alle proprie responsabilità. Non so se sia vero, però c'è qualcuno in Italia che col tema della responsabilità ha molto a che fare. A volte questa responsabilità è troppo grande per prendersela da soli. Parliamo dei sindaci, dei comuni colpiti dal terremoto e dal maltempo delle ultime settimane e che hanno difficoltà a riaprire le scuole dopo quell'allarme arrivato dalla Commissione Grandi Rischi che parla della possibilità di un nuovo grande sisma in un'area del centro Italia molto vasta. È una vicenda della quale ci siamo occupati nei giorni scorsi e sulla quale vogliamo tornare, iniziando da Roberto Di Marco, che è il sindaco di Isola di Gran Sasso e siamo in provincia di Teramo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come vanno le cose? Beh, le cose non vanno veramente molto bene. Cioè, io ho fatto i sopralluoghi alle scuole ieri e le scuole di Isola del Gran Sasso ne risultano quasi tutte inagibili tranne che per le materne. È da un po' che chiediamo delle strutture provvisorie, queste non ci arrivano. Adesso con quest'ultimo terremoto e con le eccezionali nevicate del 18 le cose sono ulteriormente peggiorate. Veramente sì, non sappiamo a che santo rivolgerci. Diciamo che ci chiedono di riaprire le scuole, poi c'è la commissione, come si diceva prima, Grandi Rischi, che ci fa delle dichiarazioni, tanto c'è delle responsabilità che noi sindaci non possiamo assumerci. Abbiamo veramente delle strutture già precarie di per sé. Dopo con dei problemi anche, Di Marco, mi sembra di capire, a fare i controlli, perché ci vuole del personale per fare questi controlli. Leggo dal quotidiano La Repubblica oggi, Giuseppe D'Alonso, sindaco di Grognaleto, dice: non apro la scuola fin quando qualcuno di competente non mi dirà che quello stabile potrà resistere alle scosse. Che, se vogliamo, è anche comprensibile, perché poi sotto processo ci finite voi se riaprite le scuole. Il problema è proprio quello, che ci vogliono dare delle responsabilità facendo assumere a noi tutte le responsabilità per quanto riguarda le strutture che, diciamo, nessuno ci garantisce la sicurezza. Le verifiche vengono fatte, ci danno l'esito di agibilità, ma con indici di vulnerabilità. Noi abbiamo fatto pure Isola del Gran Sasso le verifiche di vulnerabilità molto basse. Noi siamo perfettamente coscienti, a conoscenza delle strutture precarie che ci abbiamo, tanto che Isola del Gran Sasso, cioè, perché nel momento nel quale, mi scusi Marco, nel momento nel quale arriva la verifica, c'è una verifica nella quale magari vi possono dire l'agibilità c'è, e però l'indice di vulnerabilità ad un terremoto è alto. A quel punto la palla passa a voi, che non allora, sapete che fare. Ho capito bene? Facciamo un esempio. A me dal 24 di agosto mi hanno dato l'agibilità della scuola media e delle scuole elementari. Poi col 24 agosto è venuto il terremoto e mi hanno dato l'esito e quindi la scuola mi ha quasi collassato. avevano dato l'agibilità della scuola elementare dove avevo portato appunto provvisoriamente i ragazzi delle medie, adesso col terremoto del 18 ma collassato, quindi mi danno delle agibilità, però non mi danno certo. E deve decidere lei. La fermo Di Marco. Nel ringraziarla saluto anche Paolo Trancassini, che è il sindaco di Lionessa, provincia di Rieti. Trancassini, buongiorno. È uno che proprio sulla base di tutto questo, buongiorno Trancassini, ha deciso di chiudere le scuole sine die. Sì, beh, il discorso che facevate è esattamente quello, perché noi ci troviamo, siamo i primi, quelli più esposti, e assistiamo soprattutto in questo terremoto all'acuirsi di un malcostume che è quello di scaricare su di noi tutte le responsabilità senza la minima condivisione, perché vede, la nostra categoria è abituata, nessuno, cioè chi si avventura a fare il sindaco sa perfettamente che dovrà caricarsi sulle spalle una marea di problemi e di responsabilità. Fa male vedere che in presenza di cose importanti, grandi come questo terremoto, non c'è la condivisione del pericolo e dell'emergenza. Basta mandare un fax e mentre noi cerchiamo di calmare la popolazione, mentre noi cerchiamo di guardare avanti, poi arriva la commissione grandi rischi che fa un comunicato stampa e fa girare sui social un allarme per un terremoto pari a 7. Capisce che questo sì. getta nello scompiglio la popolazione, la popolazione nel panico, e voi nella difficoltà di dover prendere una decisione di qualche tipo. E lei dunque le scuole ce l'ha ancora chiuse? Le scuole ce l'ho chiuse, nel frattempo ci stiamo attrezzando con tre soluzioni di breve termine, perché i ragazzi comunque devono continuare a studiare. Io ho due strutture in frazioni che erano state realizzate in precedenza proprio come sede di protezione civile, le sto sistemando per farci l'asilo da una e l'elementare dall'altra, e poi nel campo sportivo, quello che era il centro di accoglienza, sto realizzando con delle pannellature tre aule per le scuole medie. Nel frattempo sto controllando le mie scuole e ho scritto al Presidente del Consiglio, ho chiesto al Presidente del Consiglio e al Capo della Protezione Civile e al Commissario al Sisma di farmi sapere come devo comportarmi con le mie scuole, che hanno una agibilità ma che non so che livello di vulnerabilità sismica hanno. La ringrazio, grazie a Paolo Trancassini, sindaco di Lionessa, provincia di Rieti, così come ringrazio ancora Roberto Di Marco, sindaco di Isola di Gran Sasso, in provincia di Teramo. Su queste vicende non vi preoccupate, che torneremo. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.